Vita del Beato Fra Tommaso da Olera. Il Beato Tommaso Acerbis nasce a Olera nel 1563. Olera è una piccola contrada in Val Seriana, in provincia di Bergamo. I suoi genitori, Pietro e Margherita, nonostante il loro casato avesse in passato goduto di una certa importanza, vivono nella povertà, come del resto la stragrande maggioranza delle famiglie che risiedono nelle vallate e nella pianura bergamasca, governate dal 1418 dalla Repubblica di Venezia. E proprio il lavoro della terra, l'allevamento del bestiame, sono le attività che garantiscono la sopravvivenza, il non morire di fame, messa anche in difficoltà, oltre che dalla miseria, anche dalle cicliche battaglie, dalle lotte e dalle vendette che serpeggiano, in particolare tra le famiglie benestanti. Non ultimo il brigantaggio, purtroppo diffusissimo allora, e dalle malattie come il colera e la peste, che arrivavano a decimare intere popolazioni. È un'epoca, cari amici, dura, difficile, in cui la Chiesa Cattolica cerca di reagire all'offensiva delle eresie e anche alle divisioni interne, chiamando a raccolto i suoi pastori nel Concilio di Trento per contrastare la riforma luterana, come sappiamo Lutero, che dilaga in tutta l'Europa del Nord dal 1518. Il Beato Tommaso nasce mentre Papa Pio IV e i Vescovi stanno appunto chiudendo la 25esima sessione dell'Assemblea Conciliare a Trento, e qui tutta la Chiesa impegnata in una profonda azione di rinnovamento e di conversione. E possiamo dire che la nascita e la missione di questo umilissimo frate è proprio incastonata all'interno di questo rinnovamento della Chiesa Cattolica, che allora come oggi ha bisogno di figure profondamente imitatrici di Cristo per contrastare la diffusione delle dottrine protestanti, dottrine che allora accusano in modo particolare il lassismo dei costumi e l'incoerenza della Chiesa di Roma. L'infanzia, intanto, del piccolo Tommaso è simile a quella di tanti altri bambini. Le giornate scorrono in questo sano ambiente contadino che forgia e modella comportamenti e caratteri, come una vera scuola di vita. E lui piccolo apprende dalla famiglia l'educazione ad una fede vera, arricchita con le pratiche di pietà, la partecipazione alla Santa Messa e alle feste religiose. E in quest'epoca il contado bergamasco è sostenuto anche da un profondo sentimento religioso. Lo è a tal punto, e si distingue rispetto agli altri, che lo stesso podestà, Girolamo Priuli, relazionando a Venezia, dice che i bergamaschi sono essi popoli religiosissimi, né per grazia di Dio in quel territorio si sente la minima scintilla di eresia, nonostante vi stiano per i loro affari la maggior parte dell'anno molti mercanti tedeschi eretici conosciuti. Tornando al nostro Tommaso, come moltissimi ragazzi della sua età, egli non ha la possibilità né di imparare a leggere né di scrivere, ma la sensibilità del cuore e questa vivacità dell'intelletto vengono avvolte allora dalla bellezza della natura, di quei luoghi, e qui proprio in questa bellezza della natura, che è meravigliosa, avverte chiaramente la presenza di Dio. La sua adolescenza è vissuta anche nel faticoso lavoro quotidiano, e deve badare al gregge che gli porta al pascolo nei dintorni di Olera. È un ragazzo sveglio, spigliato, pastore di pecore senza mai aver letto e studiato, confiderà più tardi egli stesso nei suoi scritti. Ma assume con profonda serietà quell'impegno di ogni giorno, anche se faticoso, sapendo che questo garantisce e aiuta i bisogni della propria famiglia per mangiare. E qui, nel silenzio, nella solitudine delle giornate trascorse sui monti da solo, Tommaso avverte in molte occasioni la tristezza del cuore, ma subito questa tristezza viene mitigata da una voce che sente nell'animo, e questa voce lo invita a fidarsi di Dio, anzi a donargli totalmente la sua vita. Proprio in quel periodo, benché ragazzino, è colpito dalla figura di quei frati che vede passare di casa in casa in cerca di un tozzo di pane, di qualche frutto, di un po' di polenta, che poi essi condivideranno con le persone più povere. Della stessa Valseriana, esattamente a Vertova, si era stabilita allora una comunità di cappuccini che praticava proprio l'originaria austerità dell'ordine, un'austerità veramente dura. E Tommaso, invece di essere respinto da questa autorità, al contrario è attratto dalla loro scelta di vita dedicata soprattutto alla preghiera, ma anche all'aiuto al prossimo nello stile di San Francesco. E il suo desiderio diventa sempre più grande di donarsi a Gesù. Lo diventa a tal punto che ne parla con i genitori e decide insieme a loro di essere, d'accordo con loro, di essere frate cappuccino, preparandosi ad entrare in noviziato. Appartenendo allora a Bergamo e anche Olera alla Repubblica di Venezia, il beato Tommaso è accolto presso i cappuccini veneti e così, anche se con molto dolore, perché era molto legato alla famiglia e lasciato sia la famiglia che il borgo natio, il 12 settembre del 1580 entra nel convento di Santa Croce di Cittadella, Verona, dove è superiore padre Francesco da Messina e dove 5 anni prima, pensate, si è fatto cappuccino un altro grande santo e dottore della Chiesa, Fra Lorenzo da Brindisi. Tommaso intanto ha 17 anni, è un giovanotto, dicono le cronache, robusto, con barba e chioma colore rosso, e lo attende ora questo noviziato nel quale dovrà dare testimonianza di mettersi davvero alla scuola di Francesco, accettandone soprattutto e integralmente la regola, dicevamo, molto austera, severissima. E lui accoglie tutto, veste il saio e sotto la direzione del maestro Fra Bonifacio da Udine intraprende questo cammino verso la santità. Le testimonianze in quegli anni ci dicono che è un giovane di grande fede, di una carità meravigliosa, tanto che la sua condotta è esemplare e spinge i superiori a concedergli il privilegio di imparare a leggere e a scrivere, cosa che la regola di San Francesco non prevedeva per nessuno, men che meno per i fratelli laici, lui non era un sacerdote. E qui, professati i voti poi di povertà, castità e obbedienza, nel 1584, a 21 anni, gli viene affidato l'incarico di questuante. Diviene così frate cercatore, quindi in questua, e inizia a percorrere le strade di Verona e di dintorni e a svolgere la propria missione tipica dell'ordine francescano. Il suo è un compito delicato, duro, da affrontare e vivere con umiltà, con sacrificio, ma anche con tanto entusiasmo e tanta fiducia in Dio, in obbedienza a quanto dice appunto la regola francescana a questo proposito. Scrive: «I frati come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà e umiltà, vadano per la limosina confidentemente, ne devono vergognarsi, perché il Signore si fece povero per noi in questo mondo». E Tommaso lascia il convento di primo mattino per tornarvi poi la sera, dopo una giornata passata lungo le strade tra la gente. Porta sulle spalle la bisaccia dove mette tutto ciò che gli è offerto dalla generosità delle persone, pane, olio, farina, generi alimentari che servono sì al sostentamento dei frati, ma soprattutto a tutti quei poveri che bussano alla porta del convento. E passa di porta in porta affidandosi al buon cuore di chi gli si presenta sull'uscio. Giorno dopo giorno, però, capisce che la questua quotidiana tra le strade polverose della città o tra i viottoli delle campagne a Verona possono trasformarsi in un'occasione unica e provvidenziale per donare alle persone, credenti o meno, una buona parola, un gesto di pace, un consiglio, un aiuto e ai più piccoli anche una carezza. E quel giovane questuante, dal volto sorridente e dal cuore grande, entra nelle simpatie della gente. La sua parola traboccante di amore per il Vangelo, ma incredibilmente semplice, fa breccia negli animi e invita al bene. È infaticabile fra Tommaso e dove passa lascia nei cuori un ricordo incancellabile. Questo accade negli anni trascorsi a Verona, dove resta fino al 1605, ma succederà la stessa cosa anche nelle altre città e luoghi, come vedremo, che lo accoglieranno in seguito, fino agli ultimi anni di vita, quando sarà nel nord Tirolo, destinato là dai suoi superiori su richiesta espressa dell'arciduca Leopoldo V. E lui si muove per decenni all'interno di quell'estesa provincia veneta, sempre come frate cercatore, e annuncia il Vangelo a tutti. Lo annuncia con gioia, lo annuncia con fede. Non lo fa dal pulpito, ma lo fa nelle case, nelle piazze, lungo le strade polverose, qui dove la gente vive e affronta problemi e difficoltà, a volte enormi, insormontabili, legati anche alla mancanza di lavoro, alla precarietà delle condizioni di salute e soprattutto al malessere sociale. E sono tanti gli episodi che lo vedono protagonista, e ne racconta alcuni il cappuccino Epifanio da Cipro, sono testimonianze che riguardano il nostro Beato, è descritto come un umile frate impegnato nella cerca, cioè nella questua, che se ne andava nelle case per pigliare l'elemosina del pane ricambiata con la consolazione spirituale. Ma si racconta soprattutto del suo ardore nel trasmettere la parola di Dio, come quando, oltre a tanti, nell'incontrare una donna, una benefattrice, Doralice Tieni si chiamava, si pose egli, dice, a parlare spiritualmente con detta signora dell'orazione. E fu questo ragionamento, sia alto e sublime, che durò dalle ore 18 fin quasi alle 24. La stessa nobile, questa era Doralice, una signora nobile, sarà talmente grata a fra Tommaso per il conforto ricevuto, anche il cambiamento della vita, che contribuirà a realizzare un progetto che fra Tommaso aveva nel cuore da tempo, cioè la costruzione del monastero di San Giuseppe per le Clarisse Cappuccine a Vicenza. Questo umilissimo frate francescano, questo cappuccino che oltretutto non è neanche sacerdote, provoca grande sorpresa, meraviglia in chi l'ascolta, sia che si tratti di ecclesiastici oppure di laici. A tutti, dicono le cronache, pareva impossibile umanamente che un semplice frate laico parlasse così altamente di Dio come egli parlava. E davanti alle sue riflessioni profondamente illuminate, tutti restavano attoniti, meravigliati, ma questa luce, questa forza, l'attinge il nostro fra Tommaso dalla preghiera incessante, una preghiera ardente, e lo fa mentre per le strade, lo fa nell'adorazione davanti al Santissimo, quando gli è possibile, e poi da un amore meraviglioso verso la Vergine Maria. E il suo spirito è sempre in unione con Dio, giorno e notte, che sia in questua o che sia in preghiera, o nell'ombra della chiesa conventuale, oppure nell'oscurità della sua piccola cella, resistendo alla stanchezza dopo un'intera giornata trascorsa alla cerca. Lo testimonia anche un suo compagno di questua. Dice, ritornato a casa, si ritirava in coro, ovvero in chiesa, davanti al Santissimo Sacramento, dove con gli occhi fissi al cielo, con caldi sospiri e coppia di lacrime, faceva orazione per i benefattori. E quando mi occorreva di far la veglia a qualche infermo, dice questo frate, sin le 3 e 4 ore di notte mi ritiravo poi in chiesa a fare le mie devozioni e ritrovavo il suddetto fra Tommaso con le braccia in croce ancora a fare orazione. E la sua è un'esperienza di amore presente anche negli scritti che saranno pubblicati dopo la sua morte, dove descrive il suo camminare tra la gente in cerca di pane per portare, per promuovere la pace, la giustizia, la carità. E le notti insonni di penitenza, anche di mortificazione, di preghiera, abbandonata nelle braccia di Dio, lui dice così, le braccia di Dio al quale dobbiamo aspirare, di in esso fermarci e riposarci, il cui riposo, dice, dobbiamo cercare con ogni amore e ardore, nelle cui fiamme dobbiamo bruciare, proprio queste braccia di Dio sono l'alimento per le infaticabili questue, nel corso delle quali raccoglie pane ma porta speranza, pace e cambiamento nelle persone che incontra. E dicevamo, proprio negli anni del dopo Concilio di Trento, periodo tremendo a causa proprio del protestantesimo, questo umilissimo frate compie una vera, possiamo dire, rivoluzione nel modo di essere Chiesa, offrendo l'esemplare testimonianza di un uomo di fede, di misericordia, che invita a vivere il Vangelo con fedeltà, senza compromessi, qualunque sia il prezzo. E come scrive padre Ferdinando d'Ariese, egli dice, scrive così questo padre, fra Tommaso interviene, rappacifica gli animi, visita e conforta gli infermi, ascolta ed incoraggia i poveri, scruta le coscienze e denuncia il male, parla e favorisce le conversioni. è un'evangelizzazione a tutto campo, una riforma proprio nel segno del Vangelo che ancora appare più incredibile e straordinaria perché condotta da un umilissimo laico francescano che nei suoi scritti si definisce io ignorante, dice, incredulo del fatto di avere potuto scrivere cose tali, essendo io, dice lui, il più vile di tutta la mia religione, stupito e meravigliato in quanto scrive al secolo io era pastore di pecore e nella vita religiosa non si è altro che un frate cercatore e lavatore delle scodelle in convento. E lui percorre così queste strade polverose e accidentate, prima del Veneto, poi del Tirolo e della Baviera, circondato da un alone di stima, di venerazione e di simpatia, ma anche di inimicizia, perché a molti il suo esempio, per molti il suo esempio era un rimprovero, proprio per la vita che conducevano lontano da Dio, lontano da una moralità accettabile, e quindi cercavano naturalmente di combatterlo oppure di calunniarlo. Nel frattempo però, ma lui non si è mai veramente, non ha mai avuto timori di questo, a Trento intanto, proprio nella città di Trento, stabilisce un rapporto di amicizia con il vescovo locale, Monsignor Madruzzo. Monsignor Madruzzo non esita lui stesso a manifestare pubblica meraviglia per questo semplice frate, dice, prova vivente che il Dio comunica i tesori della sua celeste sapienza a chi vuole e quando vuole, e non esclude le anime semplici che non hanno mai veduto scuola, che anzi a queste si manifesta d'ordinario e parla con maggior facilità. E proprio lui, questo viaggio che è partito dal paese, dal convento di Vertova, poi a Verona, poi a Trento, proprio a Trento, città strategica proprio nell'arginare l'avanzata del luteranesimo, del calvinismo, oltre che appunto sede del concilio, che aveva segnato nella Chiesa cattolica l'avvio di un rinnovamento, del quale lo stesso fra Tommaso diviene, dicevamo, non solo un emblema, ma soprattutto un testimone credibile. Ed è talmente testimone che il suo passaggio è già atteso in quanto la sua fama di taumaturgo lo precede. Porta molte anime alla conversione e dove passa sana e ricompone i conflitti. Le sue mani curano, guariscono. La sua parola è segno di riconciliazione per le singole persone, ma soprattutto per le famiglie, per la società. Tanti sono gli episodi narrati dai cronisti dell'epoca a proposito del suo passaggio nelle città venete. Ad esempio a Vicenza un gentiluomo napoletano viveva da molto tempo con una donna dalla quale aveva avuto dei figli, ma viveva una vita debosciata, quindi lontanissima, proprio nel peccato pieno. Oltretutto non voleva sposarla questa donna. Ma fra Tommaso, ci viene detto, esortò con parole efficacissime a lasciare quella vita, cioè quella vita peccaminosa, e sposare la sua donna. E ancorché gli facesse grandissima resistenza, non di meno vinto dalle persuasioni di detto fra Tommaso, la sposò, vivendo poi cristianamente. Quindi proprio un cambiamento del cuore di quest'uomo che per tanti anni era stato lontano da Dio e dalla Chiesa. E ancora a Conegliano, una nobile, la signora Margherita, sposa di Pellegrino Dalla Rosa, stava, ci viene detto, con febbre e altro male. Fra Tommaso, ci viene detto, la risanata del tutto col benedirla, e lei stessa dirà, fui libera e sana senza alcun impedimento, con l'aiuto pure del Signore, di quel benedetto Padre, che sempre ho creduto e credo che per le sue benedizioni il Signore l'abbia esaudito come suo buon servo. Non solo però, il nostro beato e umile fra Tommaso strappa soprattutto dal giro della prostituzione moltissime giovani. Era purtroppo una piaga diffusissima allora per guadagnare anche un po' di soldi e per sfamarsi, riportandole, ci viene detto, a vita esemplarissima e santa. E a chi sembra resistere, come nel caso di quelli che sono lontani dalla fede ma si ostinano a restare tali, egli dice, fate pure quello che volete, che alla fine la mia pazienza e le mie orazioni vinceranno la vostra ostinazione. E in effetti la sua preghiera smuove le montagne e spiana, cari amici, la strada ai miracoli della fede, alla conversione del cuore, rinnovamento delle coscienze. Egli costruisce proprio in questo suo peregrinare anche una vera rete della preghiera, aperta alla partecipazione di tutti, di uomini e donne di buona volontà. Ed è davvero incredibile come riesca, in tempi in cui le comunicazioni non erano facili come oggi, ad intessere una grande rete di rapporti. E tantissimi sono conquistati da questo suo fervore, dal suo impeto nel portare il Vangelo, nel portare Gesù. È il caso, per esempio, di una sua figlia spirituale, Bernardina Floriani, che incontra attorno agli anni 1614 a Rovereto. Ebbene, lui la segue, questa ragazza, ne indirizza il percorso interiore e anche vocazionale, ed essa entra nel monastero di San Carlo, un monastero voluto dal nostro Beato per le sue figlie spirituali di Rovereto. Erano tantissime queste ragazze. Ebbene, questa ragazza, dopo aver lasciato il nome di battesimo, prende quello di Giovanna Maria della Croce e vivrà in questo convento uno straordinario itinerario di perfezione. Vi dico che questa madre, perché sarà poi badessa, Giovanna Maria della Croce, è venerabile attualmente, ma è stata una mistica eccezionale. Ha avuto molte apparizioni proprio di Gesù, della Madonna, dei Santi, e ha avuto veramente una vita incredibile. E ha lasciato dei diari che a lei non voleva scriverli, ma è stato lo stesso Fra Tommaso a chiedere l'obbedienza nello scrivere quello che lei viveva. E vi dico, ha una vita incredibile questa madre Giovanna Maria della Croce. Dicevamo, farà la badessa e prima di morire fonderà un altro convento a Borgo Valsugana. E molte altre giovani ricevono da Fra Tommaso il dono della vita monastica, oltre quello della conversione, come per esempio Paola Valier di Conegliano Veneto, convertita da lui, ha avuto il miracolo, ha ottenuto la grazia che si convertisse dall'ebraismo, tornasse al cattolicesimo. E proprio in questo suo inesauribile peregrinare, che attorno al 1617 fa la conoscenza appunto il nostro beato di Ippolito Guarinoni, quello che sarà l'amico fedele, oltre che uno dei testimoni diretti delle vicende di Fra Tommaso, del quale andrà scrivendo, come in un racconto, i detti, i fatti, ma anche le profezie e i segreti. Guarinoni, cari amici, è una delle personalità allora più in vista non solo del Tirolo, ma addirittura dello stesso Impero d'Austria. Nato a Trento da una famiglia di medici originaria di Milano, educato dai gesuiti, laureato a Padova, ricercatore, saggista e scienziato, è tenuto allora in grande considerazione alla corte degli Asburgo. Uomo di profonda cultura, ma soprattutto di un cuore generosissimo, pensate che curò allora gli ammalati nelle varie ondate di peste, che erano tremende, che avevano colpito in particolare il Tirolo, e aveva curato tutti quegli ammalati rinunciando a degli importanti incarichi, ovviamente molto remunerati, e aveva detto di no, voleva stare lì con quei fratelli aiutandoli, e facendo il medico, quindi professando il suo lavoro, la sua missione, rinunciando a incarichi molto ricchi, e si era trasferito ad Hol, che è la città delle miniere di sale, quindi qui c'erano anche molti minatori poveri, mal pagati, non assistiti. Hol è una cittadina non lontana da Innsbruck, siamo in Austria, e qui egli aveva preso in moglie Caritas Thaler. Questa donna era la sorella di un padre cappuccino, di un cappuccino predicatore, che era anche amico e confratello di Fra Tommaso. Quindi proprio da questo nasce l'amicizia tra lui e questo medico, un'amicizia, anche una stima reciproca, destinata a segnare i 14 anni che gli mancano ancora di vita terrena del nostro beato. I due sono innanzitutto uniti dalla grande passione per il Vangelo, per portare il Vangelo, quindi innamorati di Gesù fino al midollo. Entrambi sono soprattutto allora in prima linea nel diffondere, nel difendere la riforma del Concilio di Trento, sostenendone il rigore, ma soprattutto l'innovazione. Sanno bene che l'area del Tirolo, dell'Austria e del Trentino sono il baluardo geografico per resistere allora all'avanzata delle dottrine protestanti che incombono sull'Italia. E Fra Tommaso allora, proprio per la sua santità, ha tra i suoi più ferventi sostenitori, dicevamo, addirittura Leopoldo V, arciduca del Tirolo ma anche fratello dell'imperatore Ferdinando II. E proprio Leopoldo è un nobile, ma ha un animo, è profondamente religioso, e pensa che proprio per promuovere la riforma del Concilio di Trento, pensa che proprio fra Tommaso sia la persona più adatta per rilanciare la fede cattolica e risvegliare le coscienze di tanti abitanti di quella valle. Così nel 1619 Tommaso viene destinato dai superiori al convento di Innsbruck e incardinato nella provincia religiosa del Tirolo. Insomma, dopo 33 anni trascorsi lungo le strade del Veneto e le vallate dell'Adige, ecco per lui un cambiamento di vita radicale. È una prova non da poco, perché lui entra in una realtà assolutamente sconosciuta, ma un altro grande problema è che si parla una lingua diversa. Oltretutto le forze cominciano a scendere, le gambe non hanno più la forza e il ritmo degli anni giovanili. Ciononostante, fra Tommaso, che ha ormai raggiunto i 56 anni, oggi 56 anni si è ancora giovani, ma allora si era belli anziani, comunque pian piano si adatta anche a Innsbruck e dintorni. E anche qui, in questo nuovo paese, comincia a svolgere l'ufficio di sempre, con un cuore sempre più aperto, con una preghiera ardente, cerca quotidianamente il sostentamento per i frati, per i suoi confratelli e soprattutto per i tanti poveri del suo convento, ma soprattutto per amici ogni giorno e alla ricerca di anime da difendere dal male o da recuperare alla fede. Sono anni intensi, cari amici, e lui condivide per primo le sofferenze, le attese e le speranze anche della gente, soprattutto della povera gente, degli ammalati, di chi era emarginato. Andava a cercarli, li abbracciava, li stringeva sul cuore, li consolava, ma andava anche dai potenti, ai quali ricorda come le risorse materiali vadano condivise, con giustizia, con onestà. La sua azione vuole che porti il bene comune a vantaggio di tutti i fratelli. E scrive nelle sue meditazioni: non dirà Dio se ho detto bene di Dio, ma se avrò fatto bene per amore di Dio. Sempre animato dal proposito di attuare le indicazioni del Concilio di Trento, a vantaggio del benessere morale e materiale dei fratelli, entra persino in relazione con i baroni Fieger, sono, possiamo dire, i più grandi imprenditori allora del luogo, nelle miniere di Tofer, ai quali... Perché entra in relazione con loro? Perché vuole e suggerisce modi concreti per riconoscere soprattutto il lavoro dei minatori, minatori malpagati, abbandonati a se stessi in caso di malattia, non c'era nessun tipo di tutela e quindi vivevano nella povertà ed erano oltretutto anche minacciati, perché se non avessero lavorato, non dico 24 ore al giorno, ma quasi, avrebbero perso quel poco, anche quel pezzo di pane che potevano magari comprare per sé e per le loro povere famiglie. E qui fra Tommaso mette tutto se stesso, con tutto il fuoco che ha dentro, cercando di far capire la grandezza di queste persone, anche se sono povere, sono fratelli, e si risponderà a Dio di questa cosa. Ed è vicino, dicevamo, al principe anche Leopoldo, alla sua famiglia, ne diviene amico, consigliere, anche confidente. E spesso è proprio Leopoldo a invitare lui, fra Tommaso, a palazzo per parlare del Vangelo, per spezzare la parola di Dio a tante persone, a tanti suoi interlocutori che ovviamente erano di alto lignaggio e che avevano un linguaggio forbito, insomma, ma lui cosa fa? Si fa comunque capire, si fa intendere, anzi, si fa capire a tal punto che desta la meraviglia e l'incredulità di tantissimi nobili, come raccontano tante testimonianze, ma anche tante conversioni. E poi quando è in alcuni casi lontano da Innsbruck, perché è chiamato in Baviera o in Italia oppure in altre zone dell'Austria, egli indirizza lettera all'arciduca esortandolo ad agire cristianamente e ad affrontare serenamente croci e sofferenze come mezzo efficace per imitazione di Cristo. Ovviamente erano tanti i nobili che a cui Fra Tommaso non piaceva. Perché? Perché non potevano fare i prepotenti con i sudditi o con le persone più povere, i sottoposti, no? Quindi c'era, diciamo, una specie di moralità che il nostro santo, il nostro beato, trasmetteva a un cuore, diciamo, sensibile come quello di Leopoldo V. E naturalmente anche lui aveva, insomma, dei contrasti interni non da poco. Intanto a Innsbruck lui riprende e intensifica questo rapporto di amicizia con Ippolito Guarinoni, del quale appunto dicevamo diviene amico e consigliere. E insieme attraversano tutto il Tirolo per fare cose, per annunciare ovunque la parola di Dio, dare una scossa salutare alla religiosità del popolo, ogni giorno questo popolo assediato dalle dottrine protestanti. Allora era così. E proprio questo frate, quest'uante e questo medico scienziato, possiamo dire, formano una coppia di missionari incredibili che lascia, pensate, profonde tracce nella storia del Tirolo del 1600. E proprio il simbolo concreto di questo loro impegno è rappresentato ancora oggi dalla maestosa chiesa che, dichiarata monumento nazionale, si trova a Ponte di Volder, presso Hall, sulla sponda destra del fiume Inn, in Austria. Questa chiesa è dedicata all'Immacolata Concezione, del cui dogma Fra Tommaso è stato un precursore, e poi ai tre santi della riforma della Chiesa Cattolica, che hanno avuto, diciamo, una presenza importante all'interno della Chiesa. Parliamo di San Carlo Borromeo, presente anche lui al Concilio di Trento, e poi dopo di Sant'Ignazio di Loyola e invece in precedenza di Santa Francesca Romana. Siamo nel XV secolo con Francesca Romana. E proprio l'edificazione del Tempio Mariano, iniziata nel 1620, ben presto però si rivela un'ardua impresa. Lo stesso Guarinoni, una volta avviato il progetto, è preso da tanti dubbi, da paure, anche perché gli imprevisti non mancano. Ma Fra Tommaso, che già sapeva, gli è accanto ed esorta l'amico, dice, a superare ogni pena e difficoltà, perché dice, ma questo lo dice a lui, lo dice anche a noi, perché le imprese di Dio debbono passare attraverso l'acqua del fuoco, e come sappiamo che è vero. Intanto quindi i lavori di costruzione procedono, e lui però, il nostro beato, non lo vedrà qui in terra, lo vedrà dal cielo. Guarinoni invece, come gli era stato predetto da Fra Tommaso, gli aveva detto, non morirete voi, sinché non avrete compiuto la Chiesa, come in effetti poi sarà. Intanto Innsbruck, questa città nella sua posizione strategica rispetto all'impero asburgico, qui Fra Tommaso crea e tesse rapporti e relazioni in un'area geografica enorme. La questua che lui continua a fare si accompagna come sempre alla predicazione, segnata anche da gesti forti che non mancano di fare notizia, come sono le conversioni dell'alta nobiltà al cattolicesimo. Per esempio nel 1620 si trova a Monaco di Baviera, proprio nella città bavarese riconduce alla religione cattolica un notissimo duca, il duca di Weimar, che era diventato luterano e ritorna all'ovile. Ma tutta Innsbruck è ormai affezionato a fratello Thomas, come lo chiamano loro, che fa però sempre più fatica a portarsi lungo le strade, strade per diversi mesi gelate e innevate, e lui a piedi nudi dentro rozzi sandali lacerati, ma quella è la regola e lui assolutamente è quello che vuole. Ma ovunque passa dispensa il bene del cuore. E la gente racconta delle guarigioni operate con la preghiera, del dono di scrutare le coscienze, di vedere e prevedere fatti che succederanno poi. In particolare, dicevamo, è vicino agli ammalati, ai quali spesso dona dei cucchiai di legno che egli intaglia personalmente in convento. Sono cucchiai, dicono le testimonianze, davvero terapeutici. Pensate che ne è avanzato uno, cioè ne è rimasto uno di questo cucchiaio, e che è conservato nel convento a Innsbruck, dove lui è morto. È l'unico rimasto. Ma erano cucchiai perché terapeutici? Lo stesso Ferdinando, ci riferisce padre Serafino da Rovereto allora, lo stesso re Ferdinando, imperatore Ferdinando II, subito dopo aver adoperato detto cucchiaio, gli cessò la febbre, né mai più gli venne. E fu così. E un frate caro al popolo, tenuto in stima dai gesuiti, anch'essi invitati nel Tirolo a creare un cordone di difesa per sostenere il cattolicesimo, ed è singolare come lo chiamassero in quel periodo padre. Lui, abbiamo visto, non è sacerdote, ma lo chiamano così perché è diventato, possiamo dire, l'immagine vivente della sapienza del cuore e dell'amore ai fratelli. Nel suo essere padre, questo fratello cappuccino è ancora più cosciente della grande responsabilità che nei confronti di tantissimi suoi figli spirituali, e non si ferma davanti a nulla, non si ferma davanti a prove, davanti a minacce, davanti a qualsiasi tipo di ostacolo avesse trovato. Fra il Defonso d'Augusta, questo è un altro frate, racconta che negli ultimi anni di vita fra Tommaso soffriva per i gonfiori alle mani, ai piedi e per una prolungata insonnia che spesso soleva invocare ad alta voce la sua dolcissima signora perché lo liberasse, quindi invocava la Madonna. Ebbene, cari amici, nonostante il corpo piagato, martoriato da una grave forma di artrite, egli continua in quei giorni, gli ultimi giorni, la questua, e ancora continua a tutti a portare l'annuncio del Vangelo. I confratelli parlano dei suoi stati statici, delle sue visioni celesti, delle apparizioni della Madre di Dio, e una voce autorevole, quella del Vescovo Madruzzo, riferisce che la Madonna appare al cappuccino di Olera, tenendo tra le braccia Gesù Bambino. E i suoi ultimi mesi lo vedono consumato e consunto veramente dall'ardore dell'amore di Dio, che egli invoca continuamente, senza tregua. Non ci sono ormai più le ore di riposo né quelle della veglia. Vive come in una dimensione di mistico amore e invoca questa preghiera a Gesù. O celeste sole, scaturite un raggio del vostro puro amore, ferendo il mio cuore, a ciò languisco per amore. Intanto nella primavera del 1631 è costretto a letto nella sua povera cella e il corpo dà segnali evidenti di una grande sofferenza, ma gli rassicura i confratelli, dice: i dolori sono grandi, è vero, ma l'amore di Dio è molto più grande. E fra Giulio da Venezia è uno dei testimoni diretti degli ultimi momenti di vita di questo beato, che sussurra incessanti implorazioni dicendo: «O Gesù, o amato sposo, o mio cuore, cessate un poco, riposate, il vostro amore mi ammazza avanti tempo, la dolcezza è troppo grande, il mio cuore non può più». E l'amore di Gesù l'aveva invaso totalmente, quindi era praticamente in paradiso. E in questa agonia, cari amici, stringe nelle mani il crocifisso, che bacia moltissime volte. Poi alle 2, è il 3 maggio del 1631, questo umile frate che aveva camminato sulle orme di San Francesco d'Assisi va incontro a sorella nostra morte corporale. Chiude gli occhi sul mondo terreno dove aveva vissuto per 68 anni per lasciarsi trasportare nella luce di Dio. È una dolcissima morte d'amore, il cui eco si diffonde in un battibaleno a Innsbruck, nella valle dell'Inn, in tutto il Tirolo. Accorre tanta gente a pregarlo, a dargli l'estremo saluto, desiderosa di avere in dono anche una piccola reliquia. E nella chiesa del convento, la domenica 5 maggio, ce lo dice Ippolito Guarinoni che scrive, attorno al feretro confluisce una tale folla che nessuno riusciva più ad entrare. Nobildonne popolane, giovani e matrone, in masse a gara fra loro, l'ornavano di fiori profumanti. E la salma del nostro beato, che respira in Cristo, viene tumulata nella cripta della chiesa conventuale. Secoli dopo, siamo nel 1967, sia a Bergamo che a Innsbruck si apre la causa di canonizzazione e il 23 ottobre 1987 San Giovanni Paolo II ne decreta l'eroicità delle virtù, aprendo anche l'iter per il riconoscimento del miracolo. Questo miracolo ha per protagonista un ragazzo 31enne, Valerio Bortolo Valentino, che era di Tiene, in provincia di Vicenza, affetto da ileotifo, complicato da pneumonite ipostatica destra. La guarigione qui è scientificamente inspiegabile e attribuita totalmente all'intercessione dell'allora venerabile Tommaso da Olera. Adesso, più vicino, il 14 settembre del 2013, Papa Francesco lo dichiara beato. Ma io vorrei concludere questa trasmissione dicendovi che anche altri papi del Novecento sono stati ispirati dalla figura di Fra Tommaso. San Giovanni XXIII dirà di lui: «Il beato Tommaso è un santo autentico e un maestro di spirito». E anche San Paolo VI dice di lui: «Valido strumento della generale rinnovazione spirituale, tanto da brillare nella storia di quel glorioso periodo insieme coi più ardenti sostenitori della Riforma cattolica». Tommaso, fulgito esempio di fedeltà, di zelo e di dedizione in quest'ora grande che batte l'intera